Attenzione Gian Maria! Vecchie! E Betto! Ehi Gian Maria, buonasera! Buonasera, buonasera! Devo fare più bella stasera, o no? Sì! Prendevo pinta paida! A fine è freddo pure! No! Certo! Ma che ci tu a fare una passeggiata con Edo? Ma che? Altri che non vendere? Vai, comincia a to. Bisogna essere attrezzato. Bisogna tapparsi pure lo gabbo, lo cappuccio. A cuffietta va giù. Quindi, a voi la si è tappato? Fatti, bisogna essere tappato, va, comincia lì. Tu vedi che mi fumetti pure, perché bisogna essere attrezzato, Sei lì da ragione. E io stasera, stamattina, a passare la pelle, così, dopo, a lì due, a buttarci la modetta e basta, poi sono sempre lì. Ho il caldo, acceso la stufa, c'è quella piccolina lì, per il tiro, perché io sto preso sempre il tiro. Ma c'è anche la stufa a pelle, c'è sempre, Poi questa cadretta non entra in caldo, Infatti, io faccio così. E poi già c'è il riscaldamento acceso. Poi durante il giorno accendo i climatizzatori. Qua non faccio, capito? Magari un po' già entra, capito? Perché questo rimane spesa all'ultimo, capito? La cadretta rimane più lontano attraverso gli altri, sì. Ma su questa no. E allora sono attrezzato, ho preso una stoffettina piccolina per scaldare il piede, capito? E infatti si è facendo qua, perché il piede è bollente, è tranquillo, è a bagno grande di cuore. Infatti, si vede che cosa così, fa per freddo. Bah. Tanto che sto freddo continuo, quanto capisco. Mi sembra che l'abbiamo anche la settimana entrante. Ehi, che c'è che vuol forza? Tanto ormai. Ci riserviamo il buco. Cosa mai siamo abituati, siamo vero ciò. Ormai ci siamo abituati a tutti. Pure ai cicloni. Ma è chiesa due giorni, tra poco arriva la terza ondata. E da chi capemmo? Certo. Non si erano detto gli accerti. Toccarsi la letta. Tra poco arriva la terza ondata. Allora, è lì da risolto. Questa è la volta che si rimbocca un bene a chi dà. Gio Maria, infatti è così. Bisogna far riservarci. C'ha rugato, ma niente, e boh. Ma il sciapore ha più brutta, no? Infatti, una passeggiata con rugato, una cosa, una all'altra. Già si bacia, sì. Piano piano già si bacia. Se tutto fa brodo, sto. Se no. Se non fermo noi lo brodo. Non è che possiamo farci niente. Quando si aiuta chi dà, bisogna andare. Infatti. Giulia, certo. Non fai altro che intendere che siete a camera, senato, camera. Ma che ci rabbiano chi su paesi? Sì. Cazzo, sempre più cose, sempre le solite cose. Cazzo, da là nella barrazzina lì. Dai, siamo male, diciamo di me che siamo male per lui. Faccio. Sì, un coso che deve venire, come ti sa di niente. Per carità. Andiamo bene, andiamo, grazie, perché però migliorassimo un mezz'oretto. E lo finisce qua, come si dice, lasciamo la mia sveglia. e allora stavo lì e sapevo qua a bloccarla, non la puoi bloccarlo. Se la porta via un po' se la tanto se una cosa fai una che te ne fai ne beggio per carità poi cazzo vede una ah va fra poco arriva l'australiana cos'è? L'ho già compreso, arrivi un'altra? Fra poco arriva l'australiana ci dice ehi che c'è che vuoi venga tanto pakistano già siamo così tanto da per peggio Allora siamo arrivati. E infatti, lasciamo arrivare, anche se no diventiamo proprio australiani diventiamo. E d'acqua la Ianna, pure un baccone d'acqua. E non vento. Ah, da giù tutto già rado io mi. Da giù tutto già rado. E allora, cazzo. Così che di no che non vento. Poi entra in che dice che ti fa un bel messo di fare lì. Fermo con un bel messo, lo fermo. E allora, certo. Vabbè, so. Tanto che lo faccio, lo faccio di peggio, va. Infatti, se non faccio niente di peggio, ma che sarà bigliani che sono paesi, di canto... Hai canto vent'anni, tanto sono tutti uguali, so. Io invece dell'altro. Hai visto che sa fare il barabotro ora. Ehi, conte, va bene una cosa, pa pone più poltroni. Va bene un italiano che c'è un gozo, o di zero giambi, se no non buttemmo. Lei va bene, invece di farlo fare per il gozo, fa tutti i canti, lei va bene fare poltroni, da poltroni. Di zero giambi che sta cosa, la fai così come ti ci devi. O se no, fino a che non buttemmo nessuno. Allora, per carità, Che titolo è? Il Marchisio? No, l'ho chiamato, cosa, boh. No, non mi ha risposto. Deve essere che... Massimo, tu era in coso, in visita. Adesso ci provo domani a chiamarlo. A chiamare, sarà... O sarà Magnendi. Ah, oggi era di lì, dai. Speriamo bene allora va. Domani fanno la chiamata, dirà un po' cosa l'hanno detto, va. Tanto c'era quello che il medico, l'ortopedico gli dà la cura e tutto quanto, poi secondo cosa c'ha. Vabbè, piano piano, come fa l'attacco e tutto il coso che sanno cosa c'ha, poi lo mandano via, non se lo tengono lì. Lo mandano a casa sì. Purtroppo è così, Se vogliono andare avanti è così. È marino, cazzo. È marino, quello lì ancora... Ancora non è guarito. Ah boh, non la gente giù più. Cazzo, bisogna chiamare pure dallo telefono. Ancora è messo in quarantena. Cazzo, ma lo dico io, entra e fatti intendere, un po' garito, invece nulla. Deve essere moralizzato, è più buono, cazzo. E lui ha per carità, cazzo. Non avrà manco un gara, cazzo, ha più niente, cazzo. Sai com'è. Boh, non si vede comprendere più niente. Cazzo, per carità che tutti siamo arrivati, cazzo. Oh, yeah. Che mi piace la mandi buona. Fai giunta, mi è giunto il tuo freddo. In Limbara, all'Imbara, a Coso, già Argento, Fonni, è tutto pieno di nevi. Va un bello, anche già abbastanza. Vado a farlo vedere. vedrai che dare quasi a un po' quello che burro, vedrai. Magari no, che la bocca, poi gliela fa quello che burro. Si abbassa un bel la temperatura a fare pure l'oggi. Allora, adesso ho abbassato, cazzo, in 20 minuti che ha fatto tutto quanto brucia e già sei piatto. Tu c'era un assaggio, era. Allora, un assaggio, gliel'ho abbassato però, cazzo. Oh, alla macchina l'avevamo visto tutti piatti, un balone in occhio, cazzo, era mica andato, non la divia. Certo, ma non fa sempre difficoltà da me abbassati, no? Certo, mi immaginavo sopra il fatto di mira. Poi dire, ma che vai a prima le gardene raggiù? Poi chi c'è non raggiù, con i più mani le gardene? E a baffoni mi piace anche se sono stancati, quindi non puoi più camminare, Penso abbia intaccato un baffoni. E la funesia. Sì, col decreto che c'è è chiuso, tutto è chiuso. No, non si può fare nulla, Buruete deve venire domanda di una, di una lampadio. Dopo il 7 gennaio a aprire gli impianti. Certo. Un anno siamo stati, in gita siamo stati un anno. Se ne era un poco, ma a sedere un boom ha sudato e un bel posto cazzo si piegava la parte cazzo siamo stati ma con sette dimenti cazzo però la funesia era ferma ferma era capito siamo stati sì in ditta era Quando ce n'è poco e si slitta lo stesso, Bulma è ancora peggio che pigianti da una parte e li zeri dall'altra, ma che dovrebbero essere 4x4 loro, attaccare lo gozzo e farlo 4x4. Certo. E avanti di creare migliorata, ne faccio tutti altri dopo, per cui certo. Non l'ho vista, adesso non l'ho vista, hanno rimodernato tutto anche lì, però cazzo, si sta cazzo a fare il piatto nuovo e da voi non poterla usare, sto, stavo se vuol dire la vista che cazzo di raffetti, ma dal primo gennaio ha detto che fanno aprire tutto il governo, dal 7 gennaio possono aprire tutto. Bah. Speriamo che lo sia come hanno detto gli esperti, per arrivare a terza, speriamo che non arrivi, che si cambi tutti i punti, cazzo. Certo, poi ci ha arrivato un aereo dall'America più vicino, l'hai visto, tutti blindati era, A uno hai controllato, a uno. E poi forse anche il virus, e girando più di noi, girando, gli arugrevi l'hanno inventato, a fare imparare uno a uno e controllarli per... E speriamo che non abbia dimenticato la fine, che ci sono serrati lì, è aumenta ancora per cercare, speriamo bene, ma stavano controllando uno a uno, speriamo che tutti siano negativi, speriamo bene, ma qui veniva ancora pieno, veniva ancora pieno, peggio di noi. Infatti è peggio di noi, anche da è proprio... Proprio brutto lì, ma io penso che li abbiano controllati prima di salire anche in aereo, io penso che li abbiano controllati. Se lo fanno i controlli bene, sì, non come un mese fa, che dici che l'hanno controllato, i giganti invece l'hanno fatto vedere, cosa, ma ancora non l'hanno controllato, gli hanno grido, gli hanno detto, e da voi si è stupata a tracca, cazzo, a Milano. Cazzo, finirà un staccato, non è così un poco di niente, cazzo, si dovevano controllare, e tu sai che viene da fuori. Infatti, Buonissimo, Giorgio. Senti qua che dove c'è la scelta, vibro più aereo forti. Forti che dobbiamo essere controllati, invece no. Se ne sono fottuti, se ne sono. Ecco cosa è. Anche per alcuni fa interesse, hanno controllo a cazzo, si per loro devi controllarli e tu non li controlli, vuol dire che anche mangiassuni. Infatti. Ma una volta che l'hanno fatto vedere che ci è in corso le prefetture ci sono, subito attrezzate ci sono. Vabbè, devi far controllare prima di alza sopra. E che vuoi che devi fare? Sia la partenza sia la discesa devi controllare bene, tutti però, tutti, cazzo, senza lasciarli uno a dire, e la cosa va, anche la lapide devi controllare, ma io che mi fare un altro lapide e non ricordo cazzo, cazzo, magari se gli si li sto controllando sto pieno. Ehi Gianmaria, è così è. Qualcuno da sua passa a due sopra, ti vuoi ragazzi in gamma, non verrò decido, è rimasto male. Troppo, troppo. È la questione, sono così, ma è seria, è la questione seria veramente. Noi non siamo attenti. E io dobbiamo rispettarlo. Sì, infatti noi la migrazione, invece, ci arriviamo. Era la voce di quella Sardegna, ma forse affida togli la fuora in Sardegna, era la frigata che si rifora. Qualcuno del Castiglione, Gian Maria. Siamo qua. Qualcuno del Castiglione. Un momento, siamo qua. Sembra che sia Luca. Non ho capito, sto. È vero, qualcuno che è il Castiglione sopra. Ti vuoi ragazzi gà? Mi pare che era Luca. Capo i vostri ginocchi. Ma è carefero. Sicuramente Luca del Monte. Allora va bene. Luca tu sì. Luca del Monte. Poi vedi no. Oh, yeah. Siamo in giamma, sarebbe di amigiamma. Ti è passato sopra, ti è passato. Oh, certo. Cioè. Ma è passato sopra, le mi sono avvisati io. Allora leggeri, passami sopra, ho avvisamiti. Vuol dire che è leggeri. E non lo lascio che attaccato a che cosa attaccato? Oh, ma non va niente questa, non c'è niente. Lo sacco, Luca, vabbè, tutti i vini, quindi voi a sto chiocchi, vai alle abita. Quello, non andare a mo. Già non ti ho fatto nulla però. Cazzo in abusa perché sono piccolo e nero, cazzo. Ma non c'è riuscito no. Si voleva passare sopra ma non c'è riuscito. E gli sta bene. E noi buoni muro d'urbo. Capito, e gli sta bene. La macchina impara. E vabbè. Ah, sembra di fa. A tutti i figli, io non posso essere Marino, Marino va a essere coccato su un ragazzo, cazzo. Ma c'è che prova a chiamare lui, attenzione signor Marino se ci sei, boh, non dice nulla. Qualcuno che fa rubiffi, buro, si sente rubiffi quando finisce la verità, come passo, deve essere di qualche paese. No, che arrivi basso. Ehi. Non intendo nessuno io, Gian Maria. Capito. Vuol dire una gara a bagliare. Capito, una gara a bagliare con il tracco. E a mal di gola, Fatta pigliarci una caramellina. Ribassa tutto. Ah, vediamo, dai, sai, non li vediamo un po'. Andiamo e andiamo. Ehi, se non ci piglia la caramellina, aramenta, e vedo come ti frizza. Certo. Se non piglia vista che ti fate l'aria fosca, che come si chiama lì? E dopo ci congela già il microfono. E dopo la manda la mette l'aria. E così si congeleggia il microfono, si congeleggia da bui. Allora. Così è. E cosa vuoi fare? Cosa puoi fare? Poi mangiamo, trombino. Passeggiamo, mangiamo trombino, passeggiato. E cosa vuoi fare? Tanto così è, e così ce ne andiamo piano piano. Ah sì. E calma, così sto qua in casa. Facciamo così, facciamo. Andendo, piano piano, sempre andendo. Chi si ferma per tutto ciò. Ah sì, chi si ferma. Per cui va benissimo. Sì, arentenni, e torna da sci. A salva. A scrivere ciò. Noi la mangiamo sempre. Sì, infatti. Se non mangiamo, andiamo anche da rugo. A Giulio e a Luca Malicomio, mi dice che però sono quittata a Giusubà e da voi da casa, che la bella di figlio. Beh, ormai che tu sei fatto intendere. Perché Luca non sentiva Giulio e nel Giulio sentiva Luca, no? E la dice a Luca, lui mi dice che c'è di Giulio. E da voi gliela risposto. A prima non intendeva voi, evidentemente si è portato e gliela insieme. Sì, era più basso e non intendeva. Si deve aver chiamato un po' di signore Luca e allora intendeva Giulio, capito? Sì. Però ha già salutato e basta, questa frase era bello di figli, se non lo vuoi abitare, che è un figlio di via via, vabbè, noi pure già siamo tranquilli, siamo tutto tranquilli adesso. Meglio essere tranquillo. Ripetamente bisogna passare alla bassa e figliata come se veri il tempo. Ehi, come ti può venire? Tempo umano, tempo vedo, l'importante è andare davanti e a fotticini. Fatti allora, se fa tempo umano a pelle c'è anche la giù ai magazzini, ogni tanto fa mi nasce il secchio, spero che sia un secchio a Ducci, un secchio a noi. E la sede, la ridicola che la mettere io se lì. Infatti, è meglio così. La piana di Torino. Meglio così, arma come caldo. E ci sta bene. Sì, ma adesso ci sta bene. Adesso proprio è veramente caldo a partito sull'appartamento. Sì. E da riguardo la sede, non puoi immaginare. E per cui è veramente arrivato lì, tutto aperto qua, tutte le porte, tutto aperto, tutto aperto, veramente. Se c'è ancora di becca e anche del troppo freddo, per cui non bisogna esplicarmi in casa. Ah, infatti, io quando farà l'aereo verso le 9:30, e dopo me, non vado, si va a 0 euro. Se devo tornare in casa subito. Ma se la faccio a mondetto, a soffranzo, cazzo, che era freddo, Allora, se fare un cappuccio, un cappato, beh, un butto giri, beh, un cappato, cazzo, a buio, per cui, per un gratuito, là. Allora, aspetta, se mandano per la comunità, beh, un bel comunità, che ha trovato il magazzino, cazzo. E poi alla via fredda, cazzo. Ah, la giusta, poi è caduto un po' carino. Ma sai cosa è? Che noi ci andiamo il monte di cose, il Gianni Argento e l'Imbara che sono vicino. E poi che sono per freddo. E la notte anche per fare di più anche la temperatura. Ma è di denaro questo. Di denaro, cazzo, basso, a travolgere il carro, capito? Io sono da chi sta, ho finito il freddo direttamente, ma che mi dici, è proprio il tipo di freddo. E infatti, è così, che sono freddo, di una montagna, arrivi pure in occhio, arrivi, ecco la cosa. Mamma lo metti a vicini. Perché per freddo, ma che dici, per neve e ne arrivi pure in occhio. E però il tipo è un po' più... Capi tappo, bobo, a filmata, in modo che non faccia i robbi, la gobbetta del bobo qui. Vabbè, era il dappi, ma così non arriverà un freddo ai nomi. Adesso fare il magazzino, devo far cosa. Adesso abbiamo fatto il drucciolare, e adesso fatto la mesa gialla. Adesso dice, adesso freddo, fa questa cosa, figlio è. E poi la mesaiana e non c'è niente la prende il sole si può andare in casa ma c'è la giusta stai a dire anche lì un vecchio la giusta che è la carita mesaiana e la benissimo sempre l'aria fredda però quando invece è finito infatti è così chissà che non passi alla destra e s'aggoggia speriamo vediamo se c'è qualcuno per entrare no, tutta annata al suo istante, vai infatti tutta annata al gallo già ma la porta del cane infatti è così infatti sono arrivati di 7 mesi Ma che dice il rumore? No, qua no. Ma qua no. Oh, io c'è un rumore. Cioè, sembra un motorino, basta. E poi dici che c'è il motorino, io su... che entra nell'apparato. E forse uscire la scuola. Perché ci siamo stretti a trasurdi, quando basta quasi casino in niente. Ma pure a me non basta nei nomi. Quando basta in cima motoretti, fa carettare. Mentre ne ho cose, mentre. Infatti, tiro su il tastino, tiro su. E infatti, vabbè. Attento Marino a dire il caso e lui c'ha pure dice se portare un gallo se porto però se va a intende a ferire a mio ferire vabbè va va bene va bene sta va che brifa se no quando arrivi un temporale ti da fermo e ti marugallo e beh la questione non l'hai fatto lì tanto no non ho avuto tempo di portarci Gio Marino non ho avuto tempo di farglielo vedere alla signora. C'è cosa, domani mattina, se me lo ricordo, me lo porta presso e gli chiedo a vedere quante, se 20 centesimi a foglio o se di più. Devo solo chiedere. Vabbè, chi ci vuole si paga, quello che si paga, capito, non mi interessa di andare a vendere, pegando la cosa non ti serve, e capito, chi va a ragione, capito? Oh, se lo dirai il cacciatempo e ti ricordo come sto. Ehi, catta. Ah, devo chiedere soltanto per quanto è a Fuglio. E capita che sono se il coso arriva a 69 più altre 6 fogli, 6 o 7 fogli in più. Quindi saranno i 75 fogli. Oggi mi è arrivato un altro che abbiamo ordinato. Chi si è arrivato? Arriva giù, gli arrivi giù. Cazzo, un libro è un libro, un libro sembra, fatto apposta è, un libro so. Sono belli grossi anche questi sono. È così sì. Ieri guardando, me ne è entrato un altro di manuale. Il manuale che è quasi preciso. Questo me l'ha fatto la IED elettronica, so. Mi hanno fatto pagare, però c'è tutto, c'è anche lo schema elettrico però, c'è anche lo schema elettrico, tutto completo, Se ti dico che è veramente un libro proprio perfetto, al 100%. Bello, grande, a chiara, le vocali, tutto. Cazzo. Tra viaggio e tutto, 12 euro. Certo. Lei l'elettronica ce la dovrebbe avere lo stesso, quello del Lincoln. Quelli ce l'hanno lo stesso, ce l'avevano. Vabbè, dai, te lo faccio io, quello in italiano. Io non sto pensato a farmi fare l'acqua, lo dico, non sto pensato, però fanno anche quelle, capito? Non sto pensato a farmi tutto il giro, non sto pensato solo quello là, già mi è arrivato. E vabbè, ma questo qui va bene così, vabbè, capito? Gian Maria, facciamo le fotocopie di quello, ce l'ho anche in francese, ce l'ho. Però chi sono già Biden, chi sono francese, chi sono italiano, ma alcune cose sono diverse, sono. Ma come mai sono diverse? Strano però. Se scritto in francese è chiaro che è diverso. No, perché ne ho trovato anche un altro, di cose, quella che c'era scritta in quell'altro, in quello che ho io non c'è, hai capito? È brutto, strano però, dovrebbe essere tutti uguali, o è il caccaparato di vetro, mi sembra strano, no? Dovrebbe essere tutti uguali. Ok, non l'ha già mai da dove? Sarà strano, sì, deve essere che non l'ho guardato bene io questo qua, tutto quanto. Vabbè. Quando c'hai tempo, fallo. Se c'hai tempo, fallo. Questo vuol dire. Ok, bene, vediamo un po', Marino non risponde. Bacchigi, senz'altro, lì da ragione. Ti manca Bacchigi, A me mi pare che Marino non entra mai giù che non verrà Bacchigi. E invece Marino non entra. Allora è innamorato, era di Bacchigi. Ma cosa ne so, tu? Chiatta. Non ventra di gozo, tu? Ma sai che non si sente bene, Marino, vai. era il cavalcetta, cazzo, e per cui non poteva uscire, capito? Ma devi darsi che Giorgio è più freddo di di sopra, e quindi non vi varani. Vediamo un po', vediamo un po', nemmeno ce l'aspettiamo, ce lo sentiamo tramite l'aria. Ui, andiamo. Allora, per carità, io il ferro ci riferendo tu. Si riprende il ferro e adesso bisogna essere attenticati, bisogna uscire. Sai cosa ti dico? L'aria fresca è sempre buona. Però, cazzo, se sei fresco sì, ma se sei caldo è brutto, Ah, cazzo, ma se tappassi uno, vedo da fatto, vedo che freddo non venne. Quello è, cazzo. Ehi, dai. A casa stai venendo? La malinconia. Ah, fucci vicino, io non ho di che mi sa che ha fottito. Ma tira da anzi, tira qua e tira là. Oh, non sai quanto guardiamo ciò, Da 6 a 7 il QRM. Ma mi sta salendo lo stesso. È da poco fa che me ne sono accorto che si sente di più. A fruscia, in Santena, fruscia, cazzo. Che se cotta. A fruscia, ma te ci va la sussi, su vento. La fasi che? La fasi movie. Cazzo, se no non intendi chi sa. Non ti hanno fatto ma niente ne di più, si intende? Auguria. Cazzo era la manto qua. Cazzo era un beata, cazzo. Entrava in bagno, cazzo. Cazzo per vento. Quasi un rumore per i difimi con la tempesta, cazzo, un rumore strano. Tra me ci si filmi e di tempeste, cazzo, la luce. E ti senti da voce e dirà, certo a vedere se c'è coso. E bisogna che mi buchi anche che filtro io. Ma che filtro in più a filtrare? Cazzo fa viare i giranti in acciaio, bruciava di più, si scagliava di più. Da poi invece la giambata, la giambata lo cannavo, e un rumore era di manco. Però cazzo era lo coso, l'acciaio. Cazzo, è poco bruciato quando per la vento me. L'intendiamo una notte, si può immaginare? Certo. io già non ho gente su nulla, non si intendia a me che ero ombre mobbiano. Magari chi dire luce mobbiano intendiamo. Vabbè, tu sei un mobbiano, ma io sono stati sotto, cazzo, e rubare l'attacca proprio e la fumaiola di rubagno, capito? Per cui si sentiva il rumore, ma la sorte, cazzo, come specialmente questi cori dell'acciaio fa via, cazzo, e come tutto in via, invece Lucannau c'era un bel poco. Infatti con la corda si sente di meno, si sente, purtroppo con chi sa, non so manco di cosa fate, se si intende, se non si intende. Solo il QRM, quando fendeva intendo il QRM voti. Mi sono stato là, io figlio. Mi sono stato dritto. Anche se mi sono da abbrugliare lo stomaco, cazzo, evidentemente. Non dico che bisogna andare a papà e tutto, non dà ragione. Ma è una chiacchiera tirata, l'abbiamo fatta, giustamente ci sentiamo qua. Poi ovviamente serata, buonasera, buonanotte, anche in famiglia è stato male. E se senti abbattito salutiamo la parte mia. Ok, sto chiuso, vai. Ok, ciao Giommari, ben sentito. Ci sentiamo alle prossime, a domani. Ok, ciao Giommari. Ok, ciao, ci sentiamo.